vengo dal meridione, la Puglia è il posto più bello della nazione, fiero del tuo appellativo, chiamami Terrone, per le teste di cazzo che hanno perso la nozione, emigrato dallo sperone, per la precisione il sole, le spiagge, il cibo, quello che cercate, in Terronia ce l'abbiamo sempre, non solo d'estate, più tutto il resto che nella nebbia non trovate, venite a prendervela a sud e pagatecela a rate, accoglienza, sorrisi e gentilezza, il sud è anche questo, oltre alla mafia e alla moneta, zero paragone. La mia gente è tutt'altra pasta, orgoglioso d'essere Terrone. Se lasciamo il sud è solo per lavoro, grazie a chi ci governa senza decoro. Ringrazio chi ci fa lasciare il sole e il mare, ma col cazzo che dimentichiamo la famiglia, le cose da mare. Ti do questa notizia in conclusione, il mio cognome è sinonimo di Terrone. L'estes, chamem neso Terrones, fa come te ne oia che mangheres. Cosa pensate che non mi manchi la mia terra? Qui surriscaldate tutti come l'effetto serra. Nostalgia di Foggia e della famiglia. Prendo parto, andate e ritorno, più di mille miglia. Ho camminato col fango alle caviglie, sulla sabbia corro a piedi nudi per raccogliere conchiglie, attraversare vicoli col sole sulla faccia, alla ricerca degli amici di cui ho perso qualsiasi traccia. Ritrovo le radici della lingua e il mio dialetto, come quelle di una quercia. Sono in viale Giotto, quando ritorno a casa dirado la mia nebbia. Qui è più facile essere felici, qualsiasi cosa abbia, tutto è più accessibile, è tutto più terrone, cambia il carattere, più solare, mi sento il padrone, faccio ritorno alla realtà, al grigiore dei palazzi, è stato bello evadere, o ne usciamo pazzi. Ti do questa notizia in conclusione, il mio cognome è sinonimo di Terrone, le mie origini io non le mollo, anzi alzo la posta, sono Terrone, fino al midollo, ne vado fiero e non lo rinnego, mi presento il mio alter ego. Le stesse, chiamem neso Terrones, fa come te ne oia che mangheres. Se non capisci il mio cognome, chi se ne frega? Tutti quest'anni ancora sbaglia a scriverlo, io sono Ciuffreda. Cari signori della Lega, alle votazioni contate pure nulla la mia scheda. Situazione alquanto paradossale, ci sono più Terroni a casa vostra che nel sud dello stivale. Eppure siete qui, che cheneggiate al terrorismo. A casa mia, zero polendoni, vige il terronismo. Come Dio ci avete un porco e tutto si spiega. Se mercificate sentimenti, non va nessuna piega. Passi da gigante, arrivato in treno dal profondo sud. Oggi il Terrone lo vedi per le strade, che gira in su, serie a palla, musica che spacca, nel mio DNA c'è la doppia H, il cuore pulsa forte, brama di passione, puoi dirlo forte, è quello di un Terrone. Ti do questa notizia in conclusione, il mio cognome è sinonimo di Terrone, le mie origini io non le mollo, anzi alzo la posta, sono Terrone, fino al midollo, ne vado fiero e non lo rinnego, mi presento il mio alter ego. Le stesse, chiamem neso Terrones, fa come te ne oia, che mangheres.